Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Mi scuso ancora una volta, riceviamo una valanga di mail, non riusciamo oramai più a stare appresso a tutte, però pian piano cercheremo di evaderle. Vi ricordo il mio blog robertogalullo.blog.ilsole24ore.com, oppure guardi o ladri attraverso un motore di ricerca sull'home page del Sole. Ho già parlato su questo blog di una vicenda che stiamo affrontando oggi in radio e che ha affrontato anche l'Espresso alcuni giorni fa, vale a dire della transazione sui crediti vantati dalle case di cura private della provincia di Cosenza, transazione che l'avvocato Enzo Paolini, che saluto intanto, gli do buongiorno, buongiorno avvocato. Buongiorno, buongiorno. Ritiene assolutamente legittima nella parte in cui si è conclusa, ora sarà alla regione dare la parola definitiva. Quindi transazione legittima, parliamo di decine di milioni di euro solo per la provincia di Cosenza, mentre invece il professor Mazzù, che viene a suo giudizio indebitamente richiamato in questo verbale di transazione, dice no, la transazione è illegittima, non si doveva proprio fare, perché una sentenza del Consiglio di Stato ha fatto sì che i debiti extra budget, cioè le spese fuori bilancio non dovute, non si devono pagare. Ci siamo anche addentrati, cari radioascoltatori, in una vicenda che io oserei dire kafkiana, veramente ridicola, perché se fosse vero, e non ne dubito, quello che dice il professor Mazzù, l'ASP di Cosenza chiede al professor Mazzù di difenderla in giudizio proprio per resistere a questi soldi che deve dare alle case di cura, e dall'altra parte, con l'altra mano, l'ASP di Cosenza, i vertici amministrativi dell'ASP di Cosenza raggiungono questa transazione. Allora, eravamo arrivati a questo punto e quindi a questo punto io richiamo in causa l'avvocato Paolini. Allora, l'ha convinta ciò che diceva il professor Mazzù? Affatto. Per prima cosa vorrei dire, siccome il professor Mazzù ha detto che ieri che aveva fatto soltanto da amanuense nell'accordo redatto di suo pugno, voglio dire, a modo battuta ma non tanto, che mi auguro che la Regione Calabria abbia pagato il professore Mazzù, stimato e notissimo professore universitario, come amanuense e non come consulente, perché altrimenti sarebbe strano che un professore del suo calibro si presti. E questo adesso glielo paghiamo. Detto questo, glielo chiediamo. Detto questo, contesto naturalmente che la sentenza del Consiglio di Stato dica quello che ha detto il professor Mazzù, ma ovviamente non mi addentro nei dettagli, certo, nei capelli giuridici. Carità, non trovo assolutamente, come lei ha affermato, ridicolo che in un contenzioso si resista a una pretesa e poi si faccia un accordo, perché è proprio esattamente quello che avviene normalmente nelle cause di tutto il mondo. Ogni cittadino, ogni ascoltatore sarà incappato in qualche disavventura giudiziaria e poi magari avrà raggiunto un accordo. Quindi non c'è niente di illecito. Voglio semplicemente non ho detto illecito, ho detto strano. Ecco, non lo trovo neanche strano. Ognuno il suo Devo giudizio, dire ovviamente. Un'altra cosa a beneficio degli ascoltatori che sono incuriositi da questa certo, vicenda. Certo. Il verbale redatto come amanuenza dal professor Mazzù, sottoscritto dai direttori generali di tutta la Calabria, non è affatto una proposta e un'ipotesi transattiva. Io ho il documento, chiunque lo vuole me lo chiederà, ecco, e glielo manderò. È esattamente un accordo raggiunto. Intanto glielo chiedo. Un riconoscimento di debito a titolo di indebito arricchimento. Parole scritte dall'amanuense Mazzù e recano esattamente scritto: riconosciamo il debito. Benissimo. Come indebito arricchimento. Abbiamo capito, avvocato Paolini, le chiedo ufficialmente il documento. Un abuso al giorno @radio24.it, se gentilmente me lo spedisce, così tornerò anche a scriverne. Chiamo in causa l'amanuense, professore di diritto privato all'Università di Messina, professor Mazzù. Allora, prego, anche a lei una replica. Io non ho sottoscritto personalmente nessun atto e avendolo redatto, quindi non posso dire che l'ha scritto un altro, ma non l'ho sottoscritto perché non era questo il mio compito, in quanto non ero parte di questo contenzioso. Si è arricchito, professore, con questa consulenza, lei? Ma quando mai? Dico, compensi estremamente modesti in linea con quelli che sono i pagamenti di tutti i consulenti regionali e degli assessorati, quindi stia tranquillo che non sono queste le fonti. Ecco, volevo invece dirle una cosa più importante. Prego. E cioè che questa trattativa nasce in un contesto diverso da quello del 2006, perché ha come fondamento una delibera regionale di quest'anno, la numero 244, che è cosa ben diversa da quel sistema. E quindi è indebito aver richiamato in campo il mio nome oggi per una transazione che si fa a norma di una delibera di ora e non di allora. Mi spiego? Certo. Quindi il mio motivo di lamentela nasce da questo. Che bisogno c'era di tirare in ballo il mio nome quando quella vicenda è morta e sepolta? Va bene, allora abbiamo... Questo è il punto, e aggiungo per completezza ancora. Prego. Io non ho nessun motivo di contestare politicamente o giuridicamente la nuova delibera sulla base della quale stanno andando a transigere, perché quel contesto nel quale io ho fatto quei rilievi con riferimento alla sentenza era relativo ad un contenzioso che allora io avevo ma esaminato... mi scusi però professor Mazzù, una delibera di giunta regionale può avere un valore giuridico superiore ad una sentenza, ad una decisione del Consiglio di Stato? No, ma quella era nata in un altro contenzioso. Okay. La nuova delibera, la 244, la Giunta, nella sua autonomia ritiene di assumerla perché ritiene che questo sia un percorso migliore per risolvere il contenzioso, abbattere il contenzioso. Va bene, d'accordo. Il genere lo fa. Benissimo, allora io la interrompo qui perché a questo punto chiamo in causa l'onorevole Doris Lomoro, che all'epoca dei fatti o fattacci o fatti curiosi, chiamiamoli come vogliamo, era assessore alla salute e alla sanità della regione Calabria e attraverso le colonne dell'Espresso ha, come dire, furiosamente contrastato questo accordo raggiunto o che sta per essere raggiunto tra le parti. Allora, onorevole Lomoro, lei è un politico, è stato un politico amato, è stato un politico odiato in Regione Calabria per la sua intransigenza nella gestione sanitaria. Le chiedo quindi un giudizio su questa vicenda. Beh, è una vicenda molto triste, è sbagliata anche nei toni. Mi è anche dispiaciuto sentire due professionisti parlare con toni che non sono quelli che ci dovrebbero, che dovrebbero, normali, diciamo così. E devo dire però che io, per quello che mi riguarda, e penso anche il professor Mazzù, abbiamo più di una ragione di essere molto allarmati per quello che è successo. Intanto parlo per me, do un giudizio politico della cosa senza entrare nel merito tecnico. E queste transazioni noi all'epoca avevamo cercato di chiudere il contenzioso con i privati, naturalmente di chiuderli in maniera legittima. Non sono riuscita in quello che poteva essere un obiettivo politico e la cosa si è interrotta in maniera, diciamo così, irreversibile, con un no definitivo che mi ha causato anche tanti dissapori e tante discussioni, manifesti pubblici, interventi pubblici, attacchi pubblici e poi il cambio di guardia alla sanità. Oggi è chiaro che vedere che le cose prendono un verso completamente diverso e che lo prendono anche citando addirittura pareri in maniera impropria, pareri del mio consulente, non mi... Bene. Ecco, ma se si fosse chiamata in causa soltanto quest'ultima delibera, solo ed esclusivamente questa, espressamente in questa ipotesi di accordo, sarebbe stato invece legittimo? Lei non avrebbe avuto nulla da ridire? Io non conosco bene il contenuto della delibera, io non ho nulla da dire, che chi governa si assume proprio le responsabilità. Certo. E compie operazioni che altri magari non compirebbero, non ho nessuna difficoltà a dirlo, con il suo nome, con il suo carico anche di responsabilità e con la sua autorevolezza, ammesso che ce l'abbia. Ho molto da dire invece che in pieno agosto si faccia tutto questo in sordina, e ho un motivo politico per avere da dire, perché c'è un contrasto netto e c'è una diversità di vedute, non rispetto ai privati, che io rispetto, e anche le singole case di cura che non fanno altro che tutelare i propri interessi, e questo non mi sembra, ma ho qualcosa da dire, perché in Calabria c'è una difficoltà enorme a quantificare il debito, e allora, perché da anni che la giunta, da quando non ci sono io, sembra che il compito che si è assunta l'attuale giunta, il presidente, lui era questa quantificazione del debito. Benissimo, io la interrompo un attimo, assessore Lomoro, perché voglio concludere con l'avvocato Paolini. Assessore Lomoro, ex assessore Lomoro, onorevole Lomoro attualmente. Le chiedo questo, Paolini, a suo giudizio, quindi, che cosa accadrà adesso quando si andrà al vaglio della Regione Calabria? Ma innanzitutto dobbiamo dire che successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato e dopo le revoche disposte dall'assessore Lomoro e di cui ha parlato il professore Mazzucci, ci sono stati due contenziosi, TAR Calabria e Consiglio di Stato. stato. Tutti e due i contenziosi sono stati favorevoli alle case di cura, che hanno vinto quindi le due cause, sia pure nella fase cautelare. Ecco, però mi risulta che l'AS di Paola è ancora resistente, quindi è ancora tutto chiarito. Nel merito, vedremo che cosa dirà nel merito. No, ma io infatti per questo, più che andare al passato, volevo andare al futuro. Cioè, esatto. Secondo lei la Regione cosa farà? Non è stato citato alcun parere del consulente Mazzù, innanzitutto perché, come ha detto lui, non ha espresso nessun parere, ma è stato un amanuense. Abbiamo citato una transazione scritta e firmata dai direttori generali, che è cosa diversa da un parere. Voglio chiudere dicendo che l'assessore Lo Moro, che oggi si adombra perché è stato richiamato semplicemente per definire un verbale il nome di un suo consulente dell'epoca, senza nessun richiamo a nessuna responsabilità, non è stato affatto intransigente sulle spese sanitarie quando era assessore alla sanità, perché le do i dati degli anni della gestione dell'onorevole Lo Moro. Ecco, me ne dia soltanto uno. L'ospedale pubblico di Melito Scilla, che produceva all'epoca 9.836.000 di prestazioni sanitarie, è stato pagato a piedi lista per 26.317.227. La fermo. Allora, un esempio mi basta. Onorevole Lo Moro, è stata una scialacquona, dunque? L'onorevole Paolini ha avuto altre occasioni per avere parole diverse nei confronti del suo mestiere. Io ribadisco, quello che non mi sta bene è che oggi si quantifichi per ieri in maniera differente il debito senza affermare che si sta facendo questa operazione. Se i debiti della sanità calabrese li si può portare a 2 miliardi e 2 miliardi e 2, lo faccia la giunta regionale, lo faccia lo ieri, ma lo faccia sotto la sua responsabilità e ci metta la sua faccia in questa operazione. Benissimo, allora noi invitiamo lo Iero a metterci la faccia, facciamo nostro, come tutta Italia, l'appello dell'onorevole Lo Moro, ma sono sicuro che sarà ovviamente condiviso anche dall'avvocato Paolini, dal professor Mazzù, persone che ringrazio per i loro interventi, e Roberto Calullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata, non prima di aver ringraziato Laura Fagini in studio e Pietro Lacorte in regia.